ascolto, sto curando ragionamenti, non ha risponde nessuno. Tacchi, sono tutti in giro, sono. Comunque, buonasera. Buonasera anche a lui. Tira ancora. E allora? Eccoci qua. Davvero, eccoci qua. Sembra che sia andato bene. Meglio così. Meglio così. Ebbene, voi tutti bene, sì. Un po' come il raffreddore, ce lo vuoi. Insomma, la fine non aiuta, va. Allora, se non ti si attacca l'influenza, ti si attacca un raffreddore. È arrivata l'influenza, che poi è contagiosa pure. È meglio che io sono mi contagi. Non mi va solo un raffreddore, che gli è un raffreddore che lo si vuole supportare. Adesso bisogna fare il vaccino qua adesso. A me mi ha detto a novembre, quando gli arrivano i vaccini. A novembre? Siamo vicini allora. Sì, al prossimo mese. Ti chiama lei direttamente quando farlo. Ma chi te la fa? È il medico tuo? Il mio medico. Altro che mi chiama lei, mi chiama. Appena gli arrivano, mi chiama. Quest'anno mi sembra che la facciamo anche noi. Perché l'anno scorso ci ha beccato in pieno. Era con la cattiva. Meglio non passarne, non si passarla, passarla leggera leggera. Bah. E poi quest'anno dice è contagiosa, dice che bisogna stare anche attenti agli altri pure, capito? Infatti, io non aggiungo uno, me ne bodi. Basta che figli un po' di che fate, un po' di sudore, si attacca a tutto. Vai, cerca di vedere. Tu sei mai tranquillo, va. Ui, subito non pare che va già, non so che cosa. Carità io. Ma zitto, la mamma, portalo al mare. A prendere l'aria di mare. Che gli fa bene. Va, vediamo un po' cosa riesce a fare, più tardi, va. Sì. A mese intanto si vedrà cosa fare, cosa non fare, vedere un po' com'è la situazione. Infatti conviene aspettare per vedere. A me già mi avvisa la mia dottoressa che non è che non è pronto. Faccio, e me la faccio. Andiamo a finire una. Ognuno ci ha battito in situazione, boh? Infatti, ogni anno lo cacciamba, anche se no, come ti arrivi, devi dei posti. E poi bisogna farlo anche quando stai bene pure, bisogna farlo quando stai bene pure, capito? Bisogna stare attento anche a quello. No, infatti io ogni volta che sono salito per farla, ero abbastanza, che stavo bene. Mi avvazia, un minuto, mi avvazia e gli dice a far rivederci. Ogni anno con la fantasia, e cazzo mi baciava la battessi, cazzo. E l'avrebbe aspetta obbi e rotti insomma. Ma non lo faccia sempre, capito? Immaginare, ecco perché non faccio più di questa periferia, per quel motivo, ma quest'anno riprovo di nuovo a avere un po'. Se in caso la torni a prendere, la prendi più leggera, la prendi. Ecco cosa è. Io da quando lo sto facendo non ho preso mai nulla. Non ho preso. Poi gira Bigliu. Pazienza, me la vengo. Non c'è mai la maggior situazione, per carità. Adesso quest'anno noi proviamo a vedere un po' speriamo che sia il migliore che c'hanno, dai. Infatti, speriamo che sia il migliore, sì. Non appigliare nulla, che è meglio. Se non la stacca nulla è meglio. Ma sai com'è, in questi casi, in questo periodo, e fa tutti pecca, E fa come per me, ma ci obbligate un raffreddore di mare buro, caridai. Ma c'è una su Bari, un coso, una fontana a Bari. Che raffreddore, siamo sempre raffreddati, non immaginate, cazzo, sempre faremo. Cazzo, mangio sempre qui, sa che viene di un calore, cazzo, puoi immaginare. Parisi a Marcelli e tornerò a Marcelli. C'è messo di colpi d'aria che si prende, certe volte come cambia anche il clima, cazzo, e anche quello c'è. Che sto prendendo lo spreco, bloccamelo un po'. Però ho già visto che lo blocchi, ma ti vado a andare sempre sgocciolendo, ti vado a andare. E non si può fare niente. Oh, proprio nulla proprio, sgocciolando, e fatto le tigre per il fondente. Caricaria, come il sacco per le nulla, no? Un macello è. No, prima non si chiediamo di sì, ma stiamo andando e ci siamo diventati un po'. Oh, che sia anche all'età, no? Più vecchi siamo diventati, più delicati siamo. E non è che ci puoi fare niente, più riservato sì, meglio è più ti becca. Infatti, ma io sono che scende quando a mangiare e ogni sera fanno la camerata e ho qua accompagna a pigliare meno voti, fare presa, ma che macciappo gioco. E allora bisogna sbattere le temperature ed è peggio ancora. Adesso il caldo che sta facendo, di che sta facendo caldo ancora in ottobre, a fine di ottobre, ma oggi ha messo abbassamento di temperatura, stasera si sente un po' il fresco. C'è tutto chiuso qua, noi abbiamo tutto chiuso qua, per cui si sta bene, va? Infatti noi muri no, si sta bene anche qua. Sei preso di Emanuele, ragazzi, ma a Silvia chi? Ah boh, sono a travagliare. Oh, non manco visto più io. Prima lo vedia sempre io in giro. Passando una macchina, giù più visto, sono a travagliare. Che ci ha fatto proprio tutto, non credo. Cazzo, i bagnani sulla lira. Infatti così, chissà che se fosse anche un dia che sera. Tutti i morsi, se no per finisci in frequenza, No, c'è più nessuno qua. Tutti si sono scendi, l'altro giorno c'era Marino, ho sentito. Sono tutti occupati, io. Tutti occupati, certo. Vabbè, ognuno ha le sue cose da fare, per cui, e poi adesso per esempio sabato sera se ne vanno a mangiare la pizza, si cerca di attaccare il baracchino, anche incidente una settimana, non ho sentito un'anima, lo ha acceso a posto, ma siccome il tuo accendevo c'era nessuno, spegnevo subito. Sì, no, io l'ho acceso per un po', poi anche che non entra nessuno lo spengo. E vabbè, se vuole entrare già se meno oggi. Si è ritirato, vuol dire che c'erano tutti i segni. ci siamo noi, solo noi che lo faremo l'impegno. Infatti è così. Solo noi lo faremo l'impegno. Poi se vuole entrare già se meno. No, se rimane allo guso. Marino, insomma che ci ho senza sentirlo, sempre l'abbiamo sentito insieme, quando è? La settimana scorsa. Oh, io l'ho sentito giovedì, l'ho sentito giovedì. Non l'ho atteso io. No, giovedì non l'ho atteso. Questa settimana io, sai che non vi aggano a tutto. E tutti sono a Ducati, per carità. E mi hai fatto bene a riservare. Potrebbe essere una. Certo. Chi si può vivere a Ducati? Abbrividi, per carità. Invece che è bigliato con i podari, è bigliato. Che ti ha beccato? Mi ha dato domenica sera, senza mi ha detto mia moglie. E dice per forza ci riaffacciato alla finestra, c'era Arietta, ma Arietta non ce n'era domenica, quando si è passata la zio, Arietta non ce n'era solo. Infatti ero per fatta a prendere quest'aria così, boh. Sì, sono stata nell'aria, tu mi lanciarò e ti ha beccato, ecco cosa è. Fintanto, grazie, come sei. Vabbè, mi guardavo l'entrata, voglio che guardavo, grazie, voglio fare carità, ma brividi però, e vabbè, già pare che sia abbassata, vada. Meglio così, meglio che se ti sia fuggita. È poco feo lì, mamma mia. E poi la voce mia è Sarulì. Fate tutto in forma. Sì, mi sono con buon visto, però quando mi sento male, è guardati, in terra non puoi stanno, perciò che mi può farti. Fate così. Quando già ti rimani, ero ritto ti rimani. Che meglio essere tappati che più da freddo. Facciati i dios che mi stanno facendo bene, va. Infatti Dio ci c'è laureo due volte al giorno, e per cui sta andando bene, eh. Sono quasi perfetto, quasi però, Sì, va bene, piano piano già sparisce, ecco cosa è. Oh, ma come mai, ogni tanto mi capisco la ficcosa, per carità. Pazienza, dai, già passa piano piano. Infatti così, piano piano già passa. Com'è questo microfono? Buono, Radio 5, buona, perfetta. Sta funzionando bene ancora, devo dire. Cazzo, io pensavo che fosse amplificato questo microfono, invece è normale, capito? Però forse magari per amplificarlo c'è un trimmer sotto che forse amplifica aumentando il trimmer, cosa mi dici? Ma almeno non toccarlo, cos'è che lo rovini come coso. Se quello vuole messo il cacciavite e girarlo piano piano per amplificarlo. Ci vorrebbero i cacciavite piccolini di plastica però, non di ferro, di plastica. Perché il piccolo, come si chiama, sotto, capito? Sotto la piazza. È piccolo, c'è un coso di ago, grazie. Sì, ci vogliono quelli di plastica fini, ci vogliono. Uno di quelli lì. Sì, ma meglio toccare, dai. Già, vabbè, tanto la madre, per cui la cosa un blocco a fare, ti sembra? Infatti, ma sta riuscendo benissimo, è chiara la voce. Ha voglia. Sembra anche un po' appena amplificata, sembra. Ma il tuo ricordo c'è un microfono, maledetto. Grazie. un bel cotta, un bel cotta. E ce l'ha messa a grobbe questo di sopra, questo colore. E non ce l'ha nessun altro. Qual è? Quello del Linco? Del Linco. L'M5, l'M5, no, RM50. Quelli escono benissimo, escono a Puglia, certo, quelli escono benissimo. Infatti dietro c'è un trimmer per aumentare la amplificazione. D'accordo, ma conviene, è vero, conviene lasciarlo così. Sì, conviene lasciarlo così, a Puglia se esce benissimo, e se è chiaro la voce. Quello è regolato dalla casa così. E vabbè, se è fatto, hai imballato il fascino, non penso che l'abbia toccato, quello è proprio da la casa, fatto e rimesso. Ogni tanto lo facciamo funzionare per fare certo la fila, dai. Infatti, meglio tenerlo così, e lasciarlo così. La voglia si esce benissimo, e c'ha ragione la voglia. Quello vuol dire a morte, che la radio sia bella, pulita, chiara. E poi siamo a due passi, se non ci sentiamo tra vicinanza tra di noi, allora Fatti così, fatti così, è chiara, sembra appena amplificata, sembra. No, ma non tocco niente, ma non lascio niente così e basta. È già tre settimane che non accendevo questo qua. Già sembra ancora che vada bene. Sì, no, è la voglia, se va bene, certo. È chiara la voce e tutto quanto. Sta uscendo benissimo. Guarda là ci fa il gatto, non là c'è più cara, si la caro di non sapevo mettere stai un naro qui, insomma siamo subito così in cucina a voi rogliendo la secca a fare che cosa sapeva come ti stavo ma io devo andare via non c'è per ma con il secco devo andare via già che volta uscita ma 5 minuti così l'accendo magari ma cosa c'è da fare che andrò per il suo libro però la sera così ormai sono abituato a quell'ora di accenderlo e anche se non c'è nessuno magari sta un po' dopo lo si spegne io che mi fare quando non c'è nessuno però tu stai con una gara o con una gara non fate così che non c'è una gara. Ah, ma sei buono, è mai tenuto il televisore. Io sto parlando e ce l'ho avanti, e mi acceso, perché ti guardo una cosa là, credo di fare solo per carità. E gli altri 5 minuti e poi chiudo, e abbinando per un attimo bene, per carità. Alla mappa faccio qualche cagino, poverino, dai. Perché sennò e questo apparecchio non lo accendete questo è quello grande ciò sì lo so le ha abbinate con il microfono là le ha abbinate è della stessa casa perché è della stessa casa per cui e deve andare bene per forza. Sì, si sente anche il televisore, si sente. Perché ce l'ho vicino a te? Quanto fa? 70 centimetri dall'apparecchio al televisore, capito? Ecco perché magari lo senti. Magari se metti il microfono normale, originale, suo, magari non si sente, però con questo è chiaro che lo senti, se mi vuoi. Sì, infatti è così. Vabbè, così si intende, già non dà fastidio. Chi è ancora in storia avanti? Ho sentito uno dicendo cosa. Ah, è da fuori Giovanni, sono da fuori, sono. La propagazione che c'è. Ah, ecco, infatti lo avevo sentito. Sembravano qua invece. Vera. Vabbè, dai, ci sentiamo magari eventualmente domani se coincide. Ok, chiudo. Buona giornata. Buona Giovanni. Va benissimo. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Giovanni, stammi bene. Ok, ciao, ci sentiamo, dai.